Certo che ci vuole del coraggio. Tu stai lì, sul marciapiede, che non puoi neanche oltrepassare la linea gialla e nonostante tutto trovi la forza di buttarti di sotto. E non è facile, è perché non è che c'è qualcuno che sta lì e ti batte le mani e ti grida buttati, dai, buttati, no. Tu sei lì da solo e devi trovare la forza di buttarti e di finire spiaccicato sui binari. Ci vuole del coraggio. E non è che tutti i giorni passa il treno, no. No, io ci tengo che si sappia che non è per questo fatto della fama o fare i soldi, ma è una cosa più di farla tu per primo la tua vita e di non stare lì a guardarla sul divano. Io mi sento che stavolta è quella buona. Io l'impegno nella vita ce l'ho messo. Da bambina, se mia madre mi diceva c'hai un problema nella testa, il risultato è che mia madre è solo una che si siede sul divano, mentre io, per un provino come questo, per un posto che all'inizio forse è solo un posticino, ma io mi metto lì, carina, e quando tocca a me mi alzo e dico «Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa!» Dov'è la vittoria? E vabbè, lo so, non è che sia un granché, ma si sa che poi, una volta che sei dentro, sei nel giro, ma dopo tutto va da solo. E poi, se mi hanno chiamata a me col problema che ho io, forse hanno già visto come sono. E che sono sì una piccola e sì questa cosa delle cosce, ma che comunque non mi abbatto, e non mi do per vinta, e anche se sono una piccola, io mi butto, e non ho bisogno di qualcuno che mi dica, dai, buttati, buttati, dai, io, da sola, anche se sono una piccola, ce la posso fare, me lo diceva sempre il mio papà, che gli eroi che fecero il nostro paese erano tutti dei tappi malnutriti, tipo 1,60 m, tanto che quelle camicie rosse che avevano addosso, adesso se le potrebbero mettere dei bambini, tanto che erano piccole. E io, anch'io, sono una piccola. E nella vita ci vuole l'impegno e il sacrificio, che solo così si può diventare molto alti e guardare dall'alto tutta questa plebaglia di codardi e prostituti e prezzolati. Quelli, insomma, che a forza di inginocchiarsi davanti a tutte le tirannidi diventano dei gobbi, tanto esattamente quanto quella squallida stirpe oscurantista che, secondo mio padre, effeminò, rimpicciolì, curvò e rese rachitica e strisciante la nostra razza. Mentre intanto l'uomo libero deve guardare al cielo. E io questo me lo sono sempre ricordata nella vita, eh? E sempre ho guardato al cielo, e io sempre guardo al cielo, e se un giorno sarò dove sono, è perché nonostante il mio problema, io non sarò e non sono una gobba, perché per le mie cosce, per come sono io, già da bambina prendevo la metro da sola a 13 anni per andare tutti i giorni da una signora che c'aveva questo centro del benessere dalle parti dello stadio e tu salivi con le scale, mai una volta l'ascensore, questo è chiaro, e di fianco alla cucina lei teneva una stanzetta con lettino e io mi ci sdraiavo sopra e la signora mi metteva una cremina sulle cosce e mi infilzava degli elettrodi nelle cosce e stavo lì per 40 minuti. Tutti i giorni con questo odore di disinfettante e di polipetti al sugo dell'Oceano Atlantico. Tutto bene, signorina? Un pochino di pazienza, signorina? E io non sapevo se mi sarebbe scappato da vomitare per quell'odore e da che parte avrei dovuto dirigere il getto nel caso e mi vergognavo. E allora ingoiavo. Mentre intanto la signora mi parlava e mi diceva che in 10 anni di sacrifici era riuscita a comprarsi il macchinario e coi sacrifici e con l'impegno e con le rate in 10 anni aveva messo in piedi questa bella attività con la partita IVA e senza mai chiedere niente a nessuno, perché lei nella vita non aveva mai avuto niente da nessuno. E dopo tanti anni da impiegata aveva messo su questa sua bella attività, per cui non c'era più nessun padrone a cui dire di sì o di no quando andare al cesso, le ferie, i contributi, ma era lei che comandava. Ed ero io che, mentre stavo lì con le mie cosce, con gli elettrodi infilzati nella carne, l'ascoltavo e immaginavo questa bella signora all'alba dei suoi 60 anni con una camicia rossa strappata sul petto che le lasciava scoperto un solo seno sodo, mentre avanzava la conquista della sua libertà e della sua dignità come lavoratrice verso un futuro nuovo costruito da una donna nuova che decideva lei per la sua carriera, per la sua vita, per il suo futuro, fino a che i 40 minuti non finivano e mi staccava gli elettrodi e mi diceva: molto bene, signorina. E poi mi dava un bacio col rossetto e mi diceva: dai, salutami il tuo babbo, signorina. E io all'inizio non glielo volevo dire che il mio babbo era già morto. E allora le dicevo: sì, va bene, la saluta anche lui. E pensavo, e ho sempre pensato, e lo penso ancora, che il mio papà sarebbe stato molto fiero di me, che andavo da questa donna nuova, tutta sola, ogni giorno. E pensavo, e lo penso ancora, che era un peccato che era morto così presto, il mio papà. Una domenica, che invece di andare allo stadio, si era andato a spiaccicare sui binari. Lui, da solo, col suo giornale e la sua sciarpa nera azzurra. E io l'ho sempre trovato strano questo fatto. È perché mio papà, quando guardava i film della televisione, per esempio, lui piangeva. E anche il telegiornale gli faceva impressione. E invece deve averci avuto un bel coraggio a oltrepassare la linea gialla e a buttarsi di sotto. E non è che c'era qualcuno che gli diceva: dai, buttati papà, buttati, ma si è buttato lui da solo. E allora, quando l'hanno messo nella bara, ho visto che era una bara molto piccola e che anche lui era un piccolo del mondo, proprio esattamente quanto lo erano stati quei tappi malnutriti di cui parlava sempre. E pensavo che mia madre aveva sbagliato a mettergli la giacca blu, perché io sono sicura che lui avrebbe preferito finire nella terra con una bella camicia rossa addosso. E allora io di piangere non ho pianto, ma quando sono tornata dal funerale ho cominciato questa dieta di una settimana, tutta a base di mele, che ogni giorno dovevo mangiare nient'altro che mele, e anche verdi o anche rosse, ma solo mele e sempre mele. E il primo giorno, beh, ce la faccio. Il secondo me ne mangio 7 rosse e 9 gialle. Ma il terzo, c'ho fame, e dalla fame mi mangio le unghie, e poi quando le unghie sono finite mi stacco la pelle tutto intorno e mi fa schifo, ma io mi abituo, e il quinto giorno tengo duro e mi sento finalmente come nuova, come se adesso con questa mia determinazione avessi iniziata una nuova vita. Fino a che la notte del settimo giorno non riesco a dormire e ho i crampi dalla fame, mi giro nel letto e poi mi alzo e penso che magari anche un grissino può andare, solo che a questo punto sarebbe come che tutta quella femmina nuova che ero diventata grazie solo alle forze mie, del mio sacrificio, ecco che per questo grissino se ne andrebbe del tutto in malora, e dalla disperazione non mi resta che succhiarmi i polpastrelli. E mentre sono lì che me li succhio da sola nel buio, mi viene da staccarmi con i denti una falange, ed è proprio in quel momento che non già penso ma so che la soluzione, la vera soluzione finale, è quella di mangiarmele queste mie cosce. Ed è solo così, mangiandomele e sbranandole a morsi, togliendole da me per sempre, cacandole fuori dal culo una volta mangiate, queste mie cosce mi lasceranno libera, libera di essere la donna che sono e di firmare 1000 autografi e di essere adorata e di sentire mille applausi che mi toccano il sedere. E poi vado alle feste e cammino sui tappeti rossi e tutte le sere c'è qualcuno che mi aspetta con un taxi e poi concedo le interviste e mia madre non pensa che ho un problema nella testa, ma quando va al supermercato le fanno i complimenti per sua figlia e io divento alta e non c'è più nessun problema, ma soltanto dei ministri che mi portano in vacanza e che mi baciano la schiena e che mi tengono sulle ginocchia come faceva il mio papà. E se poi metti un pomeriggio sono in coda in autostrada e quelli che stanno nell'auto di fianco mi riconoscono e mi battono sui vetri e mi dicono: oh, ma guardo, ma tu non sei quella che... sì, insomma, quella che... ma dai, quella che fa, ma sì, quella... e gli dico: sì, che sono io, che sono proprio io, sono io, sono io, sono io. Sì, sono io, pronto? Sì, pronto. Ho alzato il telefono e ho detto sì, sono io, pronto. Sì, mi chiamo così. Come dice? No, no, non ce l'ho un nome più corto. Mi dispiace, davvero. Come? Ah sì, no, Bassa, sono Bass. Ah, c'è scritto così? Ma no. Ma ne avrei aggiunti un paio così per... No, no, no, no, no, no, no, giuro, sono Bassa. Come? No, proprio grassa, no, ma beh, un po' di... No, dico, volevo dire che un po' qui le cosce mi... Ma in che senso? Ho detto in che senso e mi hanno spiegato che per questa cosa gli serviva una... Sì, bassa, questo sì, questo va bene, ma gli serviva anche grassa. No, non è che hanno detto grassa. La signorina diceva che gli servivano di bella presenza. Sì. Diciamo una presenza bella forte, se mi capisci. Mi diceva e mi dava del tu. Io no. E vabbè, le dico, ma io ho studiato il metodo che ci vuole. Io mi metto lì e... Mi gonfio tutto. Pronto? Ma cosa c'è da ridere? Ma sì, certo che ci vengo, ma... No, no, si figuri, ma quale perdita di tempo? A che ora? Come? Ma certo che so cantare. Pronto? No, no, scusi, è che si sente male. No, no, no, no, io sto benissimo, ma si sente male la voce. No, no, la mia voce va benissimo, anzi, come dire, è il mio cavallo di battaglia. Sì, no, volevo dire, ma... Sì, no, volevo dire, che cos'è che devo cantare? Ah, davvero? Quello devo cantare? No, no, no. Sì, sì, no, no, no, è che io credevo... No, no, assolutamente, è solo che... No, dico, non me l'aspettavo, ecco, ma se serve io... Ma certo che lo so a memoria. Sì, lo so, mio papà me lo faceva cantare ogni... No, dico, mio papà... Chi? Mio padre? Eh no, veramente lui è morto. Sì, sì, sì, mi assomiglia, però... Non... No, senta, non può venire anche lui, perché avevo 13 anni e è morto. E anche a me dispiace. No, non per il provino, dispiace che è morto. Sì, sì, sì, mi scusi, capisco. Alle 8 martedì? Aspetti che guardo, le ho detto. Guardo l'agenda, le ho detto. Poi ho abbassato il telefono, ho chiuso gli occhi, ho tirato un sospiro e ho detto: va bene, sì, va bene, per me va bene. E lei mi ha detto: ciao bella, ciao ciao. Sì, così mi ha detto: ciao ciao bella, ciao. E mi ha buttato giù il telefono e a me è scoppiato il cuore. Perché non mi aveva mai chiamato la televisione. A me. Proprio a me. Proprio io. Ma gliel'ho mandato io il curriculum. Ma no, ma chissà. Dio, sono lì che mi tremano le gambe e non so che fare. Una telefonata così all'improvviso e non è che tutti i giorni passa il treno. E quando passa lo riconosci, è il tuo e ci devi salire e ci vuole la rabbia giusta. Sì, ci vuole la rabbia negli occhi e buttarsi, sì. E poi l'inno. No, voglio dire, l'inno è una cosa seria. No, sì, un po' mi dispiace. Non è che sia una cosa così, come dire, non è come cantare, vabbè, dico, non è come cantare, ma non so, ma che ne so, ma mio papà diceva sempre che quello che l'ha scritto quest'inno era un eroe, e che anche lui era un piccolo, però non era grasso, no, stava bene. E non scriveva solo l'inno, ma combatteva, sì. E poi è morto. Ma prima di morire si è buttato e ha scritto l'inno rivoluzionario. Quello che si canta in tutte le occasioni importanti, come quando gioca la nazionale, per dire. E questo è importante. E io lo so a memoria perché mio papà me lo faceva cantare alla domenica invece di andare a messa. Perché diceva che a messa non si impara a cantare tanto bene quanto con l'inno nazionale. E infatti, invece che in chiesa andavamo all'acquario. Sì, mi portava all'acquario mio papà e mi parlava dei pesci e di come il delfino, per dire, che tutti gli darebbero da presentare il telegiornale, tanto è simpatico, è l'unico pesce che si prende la femmina e se la stupra lui, così, a suo piacimento, anche se non c'è la necessità di riprodursi. E mi diceva che il polpo, se occorre, si mangia i suoi tentacoli da solo. Sì, sì, ma solo il polpo femmina. Sì, insomma, la femmina del polpo, quando ha fame, ma tanta fame che non ce la fa più, lei si prende i suoi tentacoli e se li mangia. E io queste cose da bambina, mio papà, ci andavo matta e mi teneva per la mano e c'era tutta l'acqua intorno dentro i vetri e mi diceva che i pinguini ci pensano loro alle uova dei piccoli. Sì, insomma che i pinguini, anche se erano dei maschi, si mettevano lì e facevano da mamma e non era male. E lui si sentiva un po' un pinguino con me, questo me lo diceva sempre, il mio piccolo pinguino, con la camicia rossa e i baffi, che mi teneva tra le braccia, poi mi accarezzava e mi spiegava piano, nelle orecchie, che tra quei mille che fecero il nostro paese c'era una donna. Sì, c'era! C'era e come? Perché sennò sarebbero stati 999 e invece erano 1000. E c'era una donna ed era lì con loro a combattere. Ed erano tutti giovani e forti. Perché non è che, voglio dire, ci fossero degli storpi o dei ritardati con loro, questo no. Ma erano tutti belli e sani e allegri. E anche io ero allegra di stare lì con lui. Poi mi metteva una manona sulla testa e io pensavo che ero proprio fortunata ad avere un pinguino come papà. Tanto quanto invece mi sono successe delle cose coi maschi. Che io non lo so se li succedono a tutte le donne delle cose così, eh? che delle volte vorrei proprio confidarmi con la femmina del polpo o del delfino, E perché anche con questo, con questo qui di adesso, per dire, lui per volermi bene mi vuole anche bene, non dico di no, però per esempio mi dice sempre che io, sì, insomma, queste cose di farcela, così, la mia vita, ecco, lui non mi incoraggia per niente e a volte anche lui, anche se non c'è la necessità di riprodursi, siamo lì che ci mangiamo gli spaghetti e mi dice di sì, insomma, e io mi abbasso e gli slaccio la cerniera e poi mi abituo. E non è la prima volta. Voglio dire, l'altro giorno, mentre andavo per le scale della metro, mi ferma un ragazzo, anche carino, anche con una certa gentilezza, che mi chiede se mi va che glielo tocco. Sì, uno di quelli lì con le stampelle, senza una gamba, che mi sorride, carino. E non è la prima volta. Voglio dire, ci deve essere qualcosa in come parlo o come guardo, perché a me capita spesso di incontrare per la strada dei maschi, ma non dei maschi sani e allegri, ma come degli storpi. E quando mi rivolgo a loro, si vede che loro, nella loro testa, questa mia misericordia, la vedono più come una fantasia di me che glielo succhio. Sì, deve essere così. E poi non è che puoi dire di no, ci vuole del coraggio. Già alle scuole, per dire, c'era quella cosa che in ogni classe ne mettevano uno, no? Di handicappato. Beh, adesso credo che ci siano delle scuole fatte apposta per loro, ma quando andavo a scuola io, li prendevano e ne mettevano uno in ogni classe. E non è che facevano ginnastica, quella no, religione sì. E io neanche facevo ginnastica, diciamo che stavo male, perché non è che con delle cosce così uno può fare di tutto. Religione però mio papà non voleva. Comunque, sto ragazzo ci aveva sulle orecchie l'apparecchio e tutto il mento che spingeva in fuori, così. E quando parlava biascicava. Così. E mi diceva, ciao, come stai? Ma perché non fai ginnastica? E niente, io mi mettevo le cuffie col mio popstar preferito e provavo i miei balletti, perché è chiaro che se mi facevo vedere che gli parlavo a questo qui, era finita. Se mi vedevano lì, che già non facevo ginnastica, e poi che parlavo con l'handicappato, era finita. Lui intanto era lì, seduto, che piangeva. E io pensavo che magari si sentiva un po' da solo e un pomeriggio, mentre gli altri facevano la partita di calcio con le femmine, noi due ci andiamo a mettere dietro le macchine dei professori. Una rossa, una blu, un'altra rossa. E lui si tira giù i pantaloni. E io come prima cosa vorrei piangere, ma lui è lì che spinge il mento in fuori e che mi dice se mi dispiacerebbe, insomma. Cosa? Se mi dispiacerebbe, cosa? Senti, mi dispiacerebbe. Ma che? Che cosa? E io lì per lì stavo anche per vomitare, ma lui mi prende per un braccio. E uno non pensa che un handicappato possa avere una stretta così forte. Devo andare? No, no, guarda, devo andare. Mi senti? No, che non mi sente, è sordo. Allora sai cosa? Gli faccio no col dito sulla faccia. No, no, ma quando gli faccio no col dito, lui mi guarda come se fosse uno che gli hanno rubato il telefonino, come se fosse un cane bastonato dall'esercito austro-ungarico, come se io fossi l'unica persona al mondo, a parte sua madre, che gli ha rivolto la parola, e mi viene questo groppo in gola e me lo mette tra le mani. Non devo vomitare, non devo vomitare, ingoia, mi dico, e chiudo gli occhi. Dopotutto, ho 13 anni, è il primo coso che mi capita di avere tra le mani, sì, e anche se è sordo e ha l'apparecchio e sbava e mette sempre ste camicine verdi, immagino che ce l'abbia come gli altri, no? O gli handicappati ce l'hanno diverso, ma poi li fanno i figli e gli handicappati? Ma no, deve essere come quella storia dei muli e dei cavalli in Fratelli d'Italia. Ma si è mai visto un handicappato presentare il telegiornale? Insomma, provo a fare quello che mi pare giusto con questa carne tra le mani, un po' bislacca e caldina e tiro. Giro, glielo schiaccio un po', ma ci deve essere qualcosa che non va perché si arrabbia. E poi mi grida qualche cosa come piano e non capisco perché sto con gli occhi chiusi per non piangere e poi non devo vomitare. Se mettiamo proprio adesso esce qualcuno, un professore, e poi ci vede e io sono così piccolina, da sola, che non ho altri al mondo che lui. Sì, lui, il mio pop star, il mio eroe che mi sussurra nelle cuffie e canta per me, solo per me. E canta così piano che io non sono più qui nel parcheggio col mio compagno handicappato e la mia tuta da ginnastica rosa, ma sono lì con lui che mi tiene tra le braccia e canta per me. E poi dopo fa il concerto nello stadio. E quando ha finito il concerto andiamo via con la sua macchina e mi porta a mangiare il gelato. E mi dice che mi porterà nella sua villa dove c'è un acquario grandissimo. E ci mettiamo a guardare i pesci. E mentre siamo lì che li guardiamo con quella luce blu dell'acqua, io chiudo gli occhi e non sento più niente. Lui mi dice qualche cosa come piano, ma io non capisco e resto giù, vicino a lui, finché mi sporca sui capelli. Sì, tutti i capelli, come la colla. Poi dice uffa e lo rimette a posto, dentro le mutande, usato. E se ne va. Ma dove va? Ma dove va, mi dico io? Ma dove va questo cretino che neanche mi saluta? Ma cosa crede? Che lui basta che ci tira giù i pantaloni e io sono qui pronta, eh? Ma è proprio vero che ci vuole del coraggio, eh? E della gran misericordia. Bisogna dare tutta se stessa per farcela, sempre. Quelle, per esempio, quelle, sì, ma quelle, dai, quelle che fanno i programmi e ce la fanno e che sono anche intelligenti, sì, che sanno ballare e cantare, questo sì, ma sanno anche fare i discorsi, ecco loro, quelle lì, pensare cosa devono aver fatto all'inizio, che coraggio, quali sacrifici. Perché pensare cosa devono aver fatto con quelli? Sì, quelli che contano, dai, certi maschi, quei maschi che dispongono e che decidono e che fanno le convention. Sì, ecco, chissà cosa devono aver fatto con quelli lì. Glielo devono aver toccato tante di quelle volte ai dirigenti o ai capitani d'impresa e anche avere stretto i denti e anche di sopra e di lato, davanti e di traverso, nelle orecchie, dappertutto, come la colla, sì, ma con un senso del sacrificio che però poi alla fine paga, sempre. Sì, vabbè, non è che il mio handicappato fosse il figlio di un anchorman o chissà quale personaggio, anzi, ma si può dire che è lì che ho imparato a fare quello che serve in certe occasioni. Che se una cosa ti fa schifo, tu ti puoi abituare. Che c'è la lotta e c'è il mondo com'è e come lo vorresti tu. Che c'è l'uomo corrotto, prezzolato, ma c'è anche l'uomo libero che guarda il cielo. Che c'è il codardo, il voltagabbana, sì, ma c'è anche l'uomo dolce che non si inginocchia e non striscia, ma si abitua e vince. E mio padre, se ci fosse, sono sicura che sarebbe d'accordo con me, il mio piccolo papà. Vado là e gliela faccio vedere io chi sono. Sì, Io vado là, dico la mia battuta, e anche se non mi prendono, vuoi che non ci sia qualcuno tipo al bar? Sì, qualcuno al bar che non conosce qualcun altro, che poi... Sì, è così che funziona, lo so. Entro dentro, nello studio 5, o 6, o anche 7, e mi sparano le luci in faccia. Dico la mia battuta e loro mi dicono: può andare, signorina, le faremo sapere, grazie. E a quel punto lì io mi gioco tutto. Scoppio a piangere, così. E loro mi guardano. E io piango. E all'inizio non dico niente. Arriva l'assistente con la minigonna e mi chiede se va tutto bene, se è morto qualcuno, se sono le mie cose. E io le dico che è solo l'emozione, che va tutto bene, che non ero mai stata in uno studio televisivo. E lei mi dice: ma guarda che questo qui è un garage, l'abbiamo affittato per i provini. Ma io non ci credo, piango. Piango ancora un po'. Lasciatemi piangere, dico. Lasciatemi piangere. Evviva l'Italia. E mentre sono lì che piango, scende il regista della televisione, alto, con gli occhiali scuri, che dice a tutti di andare a farsi un break. Poi si avvicina e mi guarda e io alzo la testa e lui mi dice: oh, ma guarda che questa qui è solo una pubblicità del cazzo, non siamo mica agli Oscar, ma si può sapere che cazzo c'è da piangere? E io che lì per lì abbasso gli occhi, prima singhiozzo, prendo una pausa clamorosa e poi gli dico che la pubblicità è tutta la mia vita e che da quando ero bambina che aspettavo il mio momento. E lui mi guarda. Mi guarda ancora un po' e poi se ne va. E io rimango lì, da sola, nel garage, al buio. E questo è chiaro che è per mettermi alla prova che lo fanno. È perché hanno visto che sono sì una piccola e che ho sì questo problema delle cosce, ma che nonostante tutto ho del talento. E allora... anche se c'è buio, io rimango qui, davanti alle telecamere. E se serve, stanotte rimango qui, dormo qui. E mentre sto così, nel garage, al buio, ci sono come delle voci che ridacchiano e che dicono: ma guarda, guarda questa qui che cazzo di foto che ha fatto, con queste gambotte da tonno. Gli dice l'altro: sì, un tonno o una sirena, come diceva il mio papà. Queste gambotte da sirena. Sì, però una ripassatina, la mia bambina, gli dice il primo. Perché no? Risponde l'altro. Basta che respiri. Basta che respiri, che battuta. Che ridere. Sì, sì, una ripassatina, Dio, che ridere. Che ridere. Che ridere, che ridere. Ma di ridere io non rido e resto lì e resisto, perché grazie alla resistenza che c'è il nostro paese, sì, e io sto lì così ed è lì con quelle risatine da sola nel buio che non già penso ma so che la soluzione, la vera soluzione finale è quella di mangiarmeli questi cazzi, andare di là e sbranarglieli a morsi questi loro cazzi, di questi due e di quelli che comandano la televisione. il paese, la famiglia, la patria, sì, perché solo così, mangiandomeli e sbranandoglieli a morsi, togliendoli da loro per sempre, cacandoli fuori dal culo una volta mangiati, questi loro cazzi mi lasceranno libera! Libera di essere una donna nuova e di fare veramente la vita che voglio e di essere considerata anche io come una donna con le palle, come una di quelle che dirigono le imprese o i palinsesti. E poi vado allo stadio e parlo dell'allenatore o del gol in fuorigioco e tutte le sere c'è qualcuno che mi aspetta con la moto e io gli dico no, la guido io la moto, e poi concedo la mia faccia alle riviste e il mio fidanzato non pensa che ho un problema nella testa, ma quando vado al parrucchiere gli fanno i complimenti per la sua ragazza e io divento alta e non c'è più nessun problema, ma soltanto dei califfi che mi portano in crociera e che mi baciano la schiena e che mi tengono sulle ginocchia come faceva il mio papà. E se poi metto un pomeriggio sono in coda al supermercato e quelli che stanno alle casse mi riconoscono e mi tirano i capelli e mi dicono ma guarda, ma tu non sei quello da... sì insomma, quello... dai, quello... ma sì, quello... e le dico sì che sono io, che sono proprio io, sarò io, sarò io, sarò io. No, io non devo proprio niente a nessuno. Io sono quella che sono solo grazie a me stessa. Sì, così gli dico. E poi gli parlo un po' di me. E dico com'è stato che dopo anni di sacrificio ce l'ho fatta. E mi lascio andare così davanti al microfono. Un'intervista come una confidenza. Sì, insomma, la confidenza in diretta. Il giovedì pomeriggio, intorno alle 3, e io sono lì, su un bel divano verde, con mia mamma che mi guarda da casa, e io che parlo. E parlo a questo giovanotto famoso che fa il presentatore. E sì, insomma, è il mio momento. E magari a questo punto mi chiede anche che cosa consiglio a delle ragazze che vogliono farcela, come me. E io volentieri parlo. E questo è, sì, è questo. E poi magari parlo anche del mio papà e del mio paese. E cosa vuoi? Che parlando del mio papà e di quello in cui io credo non mi scappi un po' da piangere? Una qualche lacrima, ma sincera, onesta. E così lui che mi dice in diretta tu volevi molto bene a tuo padre, vero? E io un po' singhiozzo e mi fanno un'inquadratura bella stretta e poi bene, dice lui, diamo la linea alla regia per qualche consiglio. E vuoi venire nel mio camerino? Mi chiede. E io sì, gli dico sì, ma perché no? E magari nel suo camerino c'è un piccolo acquario e dopo qualche settimana siamo già sui rotocalchi e non è male. E questo è, sì, è così. E allora tutto questo io me lo devo guadagnare, la mia occasione, il mio primo passo nel mondo che conta, nel mondo che quei tappi malnutriti con le loro camicie rosse hanno costruito per noi, per me, e quegli altri che hanno resistito con la loro lotta per un paese libero, sì, questo sì, e io anche per loro devo essere una donna nuova, libera, e devo farcela, e se hanno detto grassa, così è, e se mi vogliono grassa, adiposa, opulenta, larga, e io così quella sarò, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, ma sì, mamma, ti ho detto di sì, che mi hanno chiamato loro. E lei che mi dice, mentre è lì, gobba, che mi mette i ravioli nel piatto, ma dai, ma grande! E io, sì, mamma, ma devo passarlo il provino, le dico. E che gli serve una sì bassa, questo sì, ma anche grassa. E lei mi guarda, mia mamma. Ma non ci metti il parmigiano? Mi dice e io le dico sì, certo, non è che hanno detto grassa, questo no. Però si tratta di una cosa, come dire, dai, quelle pubblicità che però servono e tu le guardi e ci ragioni sopra. Ah, quelle lì dei drogati! Mi dice e io sì, ma questa qui è per quelle cose della violenza sulle donne. Ah sì, sì, che praticamente sono secoli che sono calpestate e derise. E allora, siccome c'è sto fatto dell'unità, ci sarà tutta una serie di ragazze che si mettono delle camicie rosse e anche se sono così, ecco, coi loro problemi, anche loro possono essere delle cittadine. Certo, certo. E allora questa donna è contenta e si mette lì a cantare l'inno nazionale e i soldati ti piangono e si abbracciano e... Ma allora è un film! Mi dice, io no, ma che film è film? Magari... Ma è come un film? Mi chiede, e io no, mamma, non è come un film. Ma va in televisione! Mi chiede, e io sì, mamma, va in televisione. Ma allora lo dico alla zia! E finalmente smette di guardarmi e poi sparecchia e io... Sì, va bene, ma solo alla zia. Preparo il caffè. No, no, devo andare. Dai, un minuto. No, devo andare. E mentre è in cucina che fa il caffè, da dietro alla porta mi chiede: ma ti pagano? E io le dico sì, ma certo che mi pagano, mamma. Ah sì, mi dice, e io sì. Ma non sarà un imbroglio? E io no, mamma, che non è un imbroglio. Ah no, no, ma allora lo dico alla zia, no, cosa dici, glielo dico? Mentre intanto io mi alzo, le sorrido e mi metto la giacca e le dico, guarda mamma, devo andare, io il caffè lo prendo al bar. Ma lei arriva e mette in tavola il caffè con i biscotti e le tazzine della festa e poi mi dice che allora glielo dice alla zia ma solo a lei e se ho bisogno di qualcosa e mi sorride e io no mamma devo andare ma lei mi tira per un braccio e dice tieni che ti compri un bel gelato e poi mi allunga un cinquantone mentre invece io mi giro e dico no non ne ho bisogno ma lei insiste e dice dai e me lo mette tra le mani e io le dico no devo andare. E poi comincio a fare le scale e mi dispiace. E quando arrivo giù al portone, lei si affaccia in ciabatte e mi grida sottovoce per paura che la sentano i vicini. Ma mangi! Ce l'hai da mangiare! E io le dico sì, mamma, ma certo che mangio, mamma, mangio, mangio. E se mi impegno io, ce la posso fare. Mi sveglio, mattina, preparo un caffè latte, zucchero biscotti, ancora zucchero, ancora biscotti, latte, altro latte, biscotti, zucchero, pastone, ingoiare e ancora, restarmene ferma, non fare niente, evitare le scale e aprire il frigo, avanzo di formaggio, scartare, succhiare, mangiare, ingurgitare, 6 giorni al provino, tenere il respiro e gonfiarsi, ritenzione, ma non andare in bagno, svitare, aprire il barattolo e buttarsela in gola, Nutella, 5 giorni, colazione, campioni del mondo, e ancora cantare, provare, vittoria, la chioma, guardarsi allo specchio e imbracciare il moschetto, la panna montata, il tubetto, spararselo in bocca, così non è niente, ingrassare, gonfiarsi, ma non andare in bagno, distendersi un po', sul divano, fino al pranzo, fino a che non viene l'ora di rialzarsi e aprire il frigo, per essere quella che sono, che vogliono loro, coraggio, col burro, soffritto e cipolla, nell'elmo di Scipio, e pasta, pomodoro e sangue, maccheroni, spaghetti e mozzarella, scaduta, fa niente, mangia, e adesso canta, dov'è la vittoria, la gloria, 3 giorni, 2 giorni, c'è buio, sì, e nessuno mi vede, esco, chiamo un taxi, vado al mercato e mi compro un delfino, sì, un delfino, lo porto a casa, gli tolgo le squame, poi apro la pancia col coltello e gli tolgo le viscere, sì, gli tolgo il fegato e il cuore e i polmoni, sì, poi lo sciacco nella vasca e stacco gli occhi, ma lascio la testa, che nelle guance c'è il più buono, sì, poi lo faccio a pezzi e lo friggo, buono, sì, mi mangio un delfino, intero, prima un pezzo, poi un altro, poi ancora, ancora, ancora, sì, ma non ce la faccio, non ce la faccio più, ho i crampi alla pancia, dolore, corro in bagno, abbasso le mutande, alzati, no, trattieni, in piedi, esci, coraggio, resisti, no, alzati, no, resisti, esci dal bagno, resisti, no, non ce la faccio, resisti, no, non ce la faccio, resisti, viene, alzati, tienila, viene, no, vedo, io vedo, dal mio culo, pezzi di ragazzini nelle loro camicie rosse, nella mia merda, spaghetti attorcigliati al pomodoro e sangue, dal mio culo e nella mia merda, mozzarella spiaccicata sui binari e 1000 tappi malnutriti, nella mia merda, ho 13 anni e c'è la bara di mio padre, nella mia merda, lo stadio, le scale, l'ascensore e gli elettrodi infilzati nella carne, nella mia merda, la nazionale, il mondiale, la domenica all'acquario, nella mia merda, il delfino, i maschi forti e i maschi allegri e gli storpi ritardati sui tappeti rossi, nella mia merda, gli autografi e le stampelle senza gamba, nella mia merda, la misericordia, la pietà, la paura, la ginnastica e la religione, sì, nella mia merda, il mio popstar handicappato, i miei capelli e la colla e l'Austria e l'Ungheria, nella mia merda, le convention, i cazzi e i palinsesti, nella mia merda, i miei denti, sì, i miei denti a pezzi e la vittoria e il mio pianto, dal mio culo, il pianto di piangere la merda, la mia bella gioventù e la mia età e i toni e le sirene e le ragazze che vogliono farcela, sì, dovunque, qui sul mio divano, proprio adesso, dal mio culo, proprio ora che domani è il mio provino, proprio adesso che ero quasi grassa e ce l'avevo quasi fatta, guardarsi allo specchio, penso a cosa avrebbe fatto il mio piccolo papà, penso, respiro, penso, respira, è la mia ultima occasione, non posso permettermi di perdere il mio treno, il mio appuntamento con la storia, oltrepassare la linea gialla, forza, buttati, riprendi gli spaghetti con le mani, riprendi in bocca tutto, riprendi la mozzarella in pezzi, riprendi il mio paese, la mia patria e la nazione, riprendi in bocca tutto con le mie mani, riprendi la merda, tutta la merda nella mia bocca, sì, ecco così, pezzo per pezzo, tutta la merda e il mio paese nella mia bocca, mangia, mangia, mangia, sì, mangio, mangia, sì, mangio, mamma, mangio, coraggio, rimangio tutta la mia merda e sono gonfia sul divano e so cantare e sono pronta, gorda, grassa, adiposa, fetida. Ho i buchi di grasso nella faccia, nella testa, così, come vogliono loro. E non mi fa più schifo, no, non mi fa più schifo niente. Il sesso maschile è la nostra bandiera. Il sesso maschile è la nostra bandiera. Cinta la testa, dove la vittoria le porta la chiama, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte.